Rieccoci dopo questa pausa musicale, sempre offerta dal clan, che scelgono per noi dei brani veramente bellissimi. Anzi, vi avanzo una richiesta: durante il mio programma, se la prossima volta potete mettere tra le scelte che fate, quella canzone lì che ho detto prima, quella extraterrestre Portami Via, visto che molti di noi sperano e confidano in un mondo migliore, che magari non sia questo, ma sia un altro, va bene comunque. Un mondo in cui tutti possano trovare la propria dimensione, il proprio spazio. Questo è il mio augurio, appunto, visto che siamo a Natale, siamo in periodo natalizio, diciamo, dicembre, appunto, sta avanzando, anzi sta galoppando, come dico io, perché il tempo passa molto, molto velocemente, o almeno questa è la mia impressione. Questo è l'augurio che faccio a tutti voi, di trovare, una vostra dimensione, un vostro spazio, che sia alieno, che sia normale, che sia occulto, che sia paranormale, una dimensione in cui possiate avere la vostra realizzazione. Questo è il mio augurio per questo periodo natalizio che vi faccio, visto che questa è la prima puntata di Sulla linea d'ombra che faccio durante questo periodo di Natale, appunto del 2011. Per non parlare che il periodo di Natale del 2012 non sapremo appunto se giungeremo al Natale, considerando che ho già fatto una puntata sui Maya, sulle loro previsioni, sulla fine di tutto, sulla fine del creato appunto il 21 dicembre del 2012. Comunque non si parla di questo. Vi stavo dicendo che ho raccolto degli articoli che provengono appunto da giornali quotidiani appunto della Calabria in cui si parla di oggetti volanti non identificati. Allora io ho un articolo che praticamente parla di un impiegato dell'Unical che ha avvistato sui cieli di Rossano un oggetto volante non identificato. E un altro che praticamente parla di un disco volante che è stato fotografato da una dodicenne. Un altro ancora, praticamente, è di un funzionario dello Stato che ha avvistato il misterioso velivolo che, secondo l'elaborazione del CUN, avrebbe avuto uno sviluppo di 35-40 metri. Il tutto è testimoniato e autenticato, se posso usare questa parola non lo so, da fotografie che sono state pubblicate sul giornale. Io, siccome ho raccolto del materiale prettamente cartaceo, non ho dato tanto spazio a quelle che potevano essere le documentazioni a livello di internet, però mi andrò a documentare ancora una volta. Quindi non sono solo i cieli americani ad essere solcati da questi visitatori, io li chiamo visitatori e voglio confidare, come vi ho sempre detto ogni volta che parlavo di alieni, che siano delle entità positive, che siano buoni, magari che siano venuti a portarci, non lo so, una parola di pace e di speranza, anche perché in tema natalizio non possiamo augurarci il contrario, ecco. A Natale siamo tutti più buoni, speriamo che se anche questi alieni siano cattivi, che a Natale diventino buoni, insomma. E Finn Larson aveva da poco, prima di quest'ultimo articolo che io ho reperito e risale per lo più al 30 novembre, uscito su uno dei più famosi quotidiani della Calabria, in cui proprio quando Phil Larson, che è il comunicatore della Casa Bianca, aveva detto a tutti gli ufologi che praticamente mettetevi l'anima in pace perché gli alieni non esistono, gli UFO non esistono. Può darsi che, questo è un pensiero che faccio io personale, che come al solito mi piace condividere con voi ascoltatori, che una volta abbandonata l'America, avendo studiato in lungo e largo l'America, che è un continente molto molto grande, come noi sappiamo, è un nuovo continente, e abbiano spostato il loro interesse sull'Europa e abbiano preso d'occhio la Calabria, magari, non si sa, un lembo di terra che molti dicono dimenticato da Dio, una parte del sud Italia che è molto arretrata, non culturalmente, secondo me, perché abbiamo un capitale culturale molto molto ampio, secondo me, perché i giovani della Calabria sono tra i primi in Italia a impegnarsi nello studio e ad avere buoni risultati, al contrario di quello che si dice della scuola calabrese. Può darsi che siano venuti a ispezionare appunto la Calabria in quanto ha delle coste molto ampie, ha delle grandi campagne, quindi non lo so, magari che stiano costruendo una base proprio per noi. Comunque ci sono queste tre testimonianze che noi abbiamo e l'ultima è stato reperito nei cieli di Serra Spiga. Io ho qui davanti molte fotografie, alcune vi dico non sono molto visibili. Però diciamo che ci testimoniano appunto come siano state persone differenti a avere questi avvistamenti. Io mi mancano pochi secondi per dover lanciare la pausa musicale, quindi non so se mi conviene iniziare a leggervi le notizie che io ho estrapolato dall'articolo. Forse è più conveniente dirvi che il primo avvistamento risale all'8 novembre e rimandare a fra poco quello che è la lettura.